Time rock and roll. Eccolo. E ci siamo. Dai, quasi tutti, quasi. Quasi come tutti. Al solito c'è Nova. Qualche mancanza. Sì, una mancanza, un piccolo ritardo da parte del tecnico Bindo. È lui che ha la mancanza nel cervello. Ci vogliamo sempre bene. Tanto bene tra tutti ben, noi. Ci manchi ben. Tantissimo Bindo. Eccoci. Eccoci. Sottofondo lui era il biondo. Io sono il padre, accanto a me Luke. Il nanno alla tua destra. Eccolo lì. E ancora di più alla tua destra il biondo. Detto Mirko, il biondo. Detto Masa, detto Mirko. Della Vega, Dos Santos, Julio. Detto anche Mirko. Mister Zero Punti. Anche. Oh, vecchia questa. Vecchia. Ho detto anche 50 centesimi e voi impari. Questa è ancora me, questa è più recente. No, il Masa. Ah, il Masa. Sì, ma Mister Zero Punti. Vecchia. 10 anni fa. Sì, ai sì. Tempi. Tempi dei zero punti. Tempi zero punti. Comunque, 14ª puntata. All Time Rock and Roll. Anche oggi compleanni. Anche oggi parleremo della storia del rock. E io però inizierei quasi col parlare del carnevale, visto che è finito. Ancora? Ma perché c'è bisogno di parlarne? Se proprio vogliamo essere così puntiglio. Abbiamo fatto uno special sulla prima, una prima puntata. Parliamo del carnevale di... giusto parlare anche della fine del carnevale. In quanto ma finito come io, come mai sei così moscio? In quanto moscio. Finito io non ritengo opportuno parlarne. Però vabbè, se proprio volete. Io dissento. No, vabbè, cosa possiamo dire? L'epilogo, solo l'epilogo, no, dai. Per Azzurri meritatamente. Esatto. Meritatamente, sì. Poi il resto non conta. Sinceramente. Non lo diciamo io. Non lo diciamo. Non diciamo, o diciamo fino al terzo posto. Vogliatemi bene, via. Va bene. Grazie. Che il quarto viene da sé, chiaramente. E terrò conto. Questa edizione del Carnevale è stata vinta appunto dal cantiere. Quarto viene da sé. No, perché lui ha detto. Quattro volte quarti in 80 anni di storia, se permetti. Cioè chi è arrivato tre volte a fila, quarto. No, perché lui. Quattro volte in 80 anni. Lui ha detto diciamo solo fino ai primi tre e poi dopo il quarto viene da sé. Ah, beh, giustamente. Collegato a quello. No, facciamo i complimenti al cantiere degli Azzurri, a tutti i ragazzi che hanno creato il carro che poi ha vinto quest'anno. Bravi tutti, comunque anche gli altri. Sì, logicamente. Molto bene. Gli altri carri, tutti gli altri cantieristi. Esattamente. Tutti i cantieristi anche tranne uno. Tranne uno. Chi? Lo so io. Ah. E lo so io. Va bene, andiamo avanti, riprendiamo con la puntata di All Time Rock and Roll e partiamo subito con il primo compleanno. Lui è Steven Percy Harrison, meglio conosciuto come Steve Harrison, nato a Londra il 12 marzo del 1956. È un bassista inglese, è il principale compositore, tastierista e bassista della band heavy metal Iron Maiden, da lui stesso fondata nel 1975. Harris e Dave Murray sono gli unici componenti presenti in tutte le produzioni della band. Quindi, carissimo Steve, tanti auguri, e questo è Fear of the Dark degli Iron Maiden. Oddio, scusate. Allora chiude, se va a mangiare il pesce. Ma mi è presa proprio. Scusate. Cosa male? Precise, mi sono alzato. È andato di traverso il gelato. Sì, tipo. Scusate. Era. Non era Fear of the Dark, ma era Quick or Be Dead. Be Quick or Be Dead degli Iron Man. Scusate, mio sbaglio anche questo. Vabbè, vado via, basta. Basta, vado via. Vabbè, vabbè, stato... Muoio in diretta. No, non andare, le canzoni. Patro, non andare, che ora c'è un altro compleanno. No, vabbè, questo poi va. Compleanno di Graham Coxon, 12 marzo 1969, un cantautore e chitarrista inglese, famoso per essere membro del gruppo rock dei Blur e per il suo lavoro da solista. Sa suonare diversi altri strumenti, tra cui la batteria e il sassofono. Inoltre si produce anche nella scrittura e nella pittura. Quella. Nonostante la permanenza nel gruppo, comincia a pubblicare i suoi album solisti già nel 98 con The Sky Is Too High. Divisosi dal gruppo nel 2002, si dedica a tempo pieno alla sua carriera personale. Tuttora ha ben 7 album solisti pubblicati, di cui 3 quando ancora era membro della band. Durante la sua carriera ha sempre avuto molte divergenze con il frontman dei Blur, ovvero Damon Albarn, per i più svariati motivi, una delle quali la sua forte dipendenza dall'alcol, attualmente risolta. Charmless Man. Auguri. Go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running Cray, but then nature didn't make him that way. Charmless man, I just had to ed erano i Blair con Charmless Man. Devo tossire anche in questa canzone se volete. No, no, no, no, no, no, no. Okay. Non sto bene, scusate. Storia? Storia, storia del... arte. Non c'è scritto. Non c'è scritto, ma penso sia il 69. Parte 3. Parte 3. Nanna, hey hey, baciarlo, goodbye. Che sta nanno, cioè, veramente. Io pensavo che voi le correggesse. Io al lavoro ho un... No, ma me ne sono accorto che era così, l'ho voluta di... Ah, ok. Che in realtà sarebbe tolto i lamenti angosciosi, rimarrebbe Kiss Him Goodbye, oh, che è una canzone degli Stem. Scritta e registrata da Paul Leca, Gary De Carlo e Dale Frashwer, attribuita a una band allora fittizia che hanno chiamato Vapor. È stato rilasciato sotto la Mercury casa discografica ed è diventato un numero uno singolo. Sto improvvisando. Avevamo capito. È tutto tradotto. Alcune parole sono in italiano, ma non andrebbero tradotte. Comunque, vabbè. È diventato il numero uno nella Billboard Hot 100 dalla fine del 69 ed è rimasto in classifica nei primi mesi del 70. Il ritornello, come conoscete, è stato ben noto ed è stato spesso usato per un canto nella folla negli eventi sportivi, oppure anche per pubblicizzare molte cose, fra cui cosa? Un famosissimo spot. Quale? Di un biscotto. Di un biscotto. Sì, biscotto. Sì, sì, sì. Comunque vi lasciamo con gli Stem e la loro Kiss Him Goodbye. Cazzo era? Mamma mia, Biondo! Mamma mia, che stacco! Ricordiamo la clientela che ancora il secondo tecnico Bindi non è arrivato. Non grazie. È venuto. Comunicazione di servizio. Ding dong. E andiamo avanti. Loro erano gli Steam con Kiss Him Goodbye. O meglio, Nanà e hey, baciarla goodbye. Nananno e hey, Nananno, baciarlo, hey. Bacelo te. Andiamo avanti con Get Back dei Beatles. Stranamente la leggo io. Io volevo ascoltare in diretta la telefonata con tuo fratello. No, abbiamo già fatto. Era una telefonata, solo un geometra la poteva capire. Molto dolce. Io ho capito Giulio e ciao e basta. Dopo il resto prendi lo strumento della planimetria, lo metti al catasto, vai. Dove lo vuoi mettere? Non lo so. Dove lo vuoi? Il campo, come funziona? E lo strumento dove lo vuoi? È il treppiedi, quello col prisma, vero? No, no, non esistono più. Come non esistono più? Non esistono più. Ma ci si vede tantissima gente ancora a giro. No, quelli sono gli autovelox mobili. Ah! Ecco perché quando passo ridono e sono contento. Già. Quindi tutto quello che è su un treppiedi non è lo strumento di geometria, non deve essere per forza solo esclusivamente uno strumento di geometria. Anche no. Anche no. Ho capito, quindi può essere anche un autovelox che fa male. Sì, sì, benissimo. Ho capito. Va benissimo, ma non esistono più veramente. Ma erano carini, si usano poco. Vedere due persone in mezzo al campo che dice: ma cosa stanno facendo? Ma quali misure prendono? Adesso fanno con i raggi infrarossi. Si mettono gli occhialini. Poi succede... No, c'è un'app anche per quello. Sicuramente. Poi succede che guardi amici miei. Sì. E quando ti arriva il contadino che ti chiede: ma cosa state facendo? Cioè, passa l'autostrada. capito? No, non è possibile. Infatti, c'è stato un incremento di iscrizione alla scuola geometri. Dopo il primo film da amici miei. È vero. Solo per fare quella scena solo lì. Solo per fare quella scena lì. Poi hanno smesso. Basta. Poi è passato di moda. Anzi, amici miei, non passerà mai di moda. Anzi. Ancora. No, sì. Pensavo che mi chiamava ancora. No, pensavo. Ah, usi l'app per calcolare. Ah, ovviamente. Va bene. Mi è arrivato il bini. Sarà. Lui, come l'altra volta, arriva 20 alle 8, raga, vado via 5 minuti prima. Ma vabbè. Non venire a questo punto. Secondo me non viene. Bravo Biondo. E andiamo avanti. Get Back, una canzone dei Beatles scritta da John Lennon e stranamente da Paul McCartney. Che strano. Strano. Vabbè. La canzone originale è stata pubblicata come singolo l'11 aprile, il mio compleanno. auguri. No, non è vero, sono nato il 13 del 1969 ed è stata eseguita dai Beatles con Billy Preston. Così hai messo alla prova la nostra quanto memoria. Quanto mi volete bene. Siamo degli già amici. Già il master era partito, auguri, bravo, complimenti. Siamo veramente degli amici di... Sì, lo sapevo. Infanzia. Comunque. Infanzia. Mi ha profitto. Auguri Paolo. Auguri a Paolo. Paolo del Santo. Lui fa sempre. Ah, è vero, auguri Paolo. È il nostro amico che ogni fine settimana compie gli anni. Sì. Non si sa perché, ma è arrivato per ad avere. Partire un brindisino è sempre il suo compleanno. Avrà più o meno dai 120 ai 140 anni, ma gli dimostra come se ne avesse 24-25. Sì. Bravo Paolo. Auguri di nuovo. Auguri. Tra altre cose. Auguri, auguri. Ed è stata eseguita Brindisino dai Beatles con Billy Preston. Che ne pensi di mandarla direttamente senza descrizione? Che scena stai dicendo? Mandala. Beatles, Get Back. We'll be right back. she gets it while she can. Oh, get back, get back, get back to where you once belong. Get back, get back, get back to where you once belong. Get back, Loretta. Go home. Beatles, ce l'abbiamo fatta. Attenzione. Cosa? Che è successo? È arrivato il bindi? No. Comunicazione no, importantissima. Diccela. Ce l'abbiamo fatta, Pat. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente i due righi di Valerio. Ah, ecco. Tutte le volte vale, mi raccomando, giusto due righe. Sì, sì. Ora sono due per davvero, un signore degli anelli fatto a scaletta. Ora sono veramente due righe. Lui deve dire due righe. Queste c'erano. Peraltro peccato, perché è anche una bella canzone. Sì, infatti. E tra le altre cose abbiamo scoperto che adesso i geometri, tornando al discorso di prima, prendono le misure col GPL. No, col GPL, col GPS. Ah, sì. E lo pagano 0,97. Fanno sì, con un pieno 300-400 km. Quindi, che dici? Ha voglia prendere case. Infatti giù al metano fanno sempre la tesserina per geometri. Di geometri, esattamente. C'hanno più sconto. Niente, oggi è così. Communication Breakdown, una canzone del gruppo rock inglese Led Zeppelin. Fa parte delle tracce del loro album di debutto, per l'appunto chiamato Led Zeppelin. Aspetta, perché c'ha da legge ancora. Ed è stato pubblicato come lato B del singolo Good Time, Bad Time. Led Zeppelin, Communication Breakdown. Bignami di 2 minuti e 30 di puro rock and roll. Un mignot. Oh, zitto. Esci da questo corpo, Matteo. Mi guardavo con quegli occhietti. Ti piange, guarda. Un mignon. E mi guardavo con gli ora gentili dico. Gli ascoltatori, si è commosso il tecnico. Ecco. Ricordiamo, oggi è puntata dedicata all'albo dei geometri. All'albo della provincia d'Arezzo. Esatto. Qual è il santo dei geometri? Non penso che esista. San Compasso. No, dovrebbe essere. Non ne ho idea, non mi sono mai informato. No, così, visto che te sei un geometra, ci sarà un santo. Informati, perché lo voglio sapere. E dei ristoratori? Non lo so. Vedi. Io ho scoperto. No, ho letto il mio, San Riccardo. Che non ha senso. È il santo dei cucchieri. Dei cucchieri. Cucchieri. Te fai, dovresti fare il cucchiere? Ma dove? Ma non ci vedrai benissimo. Col fularino e pappardino. Il cavallo. Il cucchiere? Sì, il cavallo. Cioè, no, il cavallo è quello che guida. Non fa più un orologio con questo. No, vabbè, fallo te il cavallo. No, non lo so fare. Allora. Te mangio lo sapato. Ucciuccio mazzo. Mi manca, mi manca. Ucciuccio mazzeo. Down. Che non è il mazzeo. On the corner. È una canzone. Anche questa, no, ragazzi. Voi lo fate apposta. È tradotta anche questa. Oh, ragazzi, non l'ho. La mia è una canzone della americano banda Creedence Clearwater Revival. Questo non l'ha tradotto. Però, però Creedence Clearwater l'ha scritto bene. Infatti. Non so con quale. È Erba avanti il traduttore. È apparso sul loro quarto album in studio, Willy e i poveri ragazzi. I poveri ragazzi. Durante la registrazione è apparso in studio Willy e quei poveri ragazzi. Ti salutiamo, ciao Willy, ciao poveri ragazzi. Poveri ragazzi. Guardiamo qualsiasi cosa, c'è GPL per calcolare. La canzone racconta la storia della fiction banda. Attenzione, questa Mamma è una fiction mia. Questa è nuova. Willy e i poveri ragazzi. Ancora, un'altra volta. E di come giocano agli angoli delle strade per allietare la gente e chiedere monetine. Ma ha tradotto allietare, non ha tradotto a me, banda americana. Roccia, qualche volta roccia è roccia banda. Banda. No, io dopo roccia banda ce l'ho. La canzone ha raggiunto la posizione numero 3 nella Hot 100. Non so cosa vuol dire in italiano allietare, io non so. Ma Google Translate sì. Evidentemente sì, ma non sa cos'è una band americana. Scusi. Sei in polemica? Sì, no, mi è saltato il pallino perché oggi c'ha il Marchese. Oggi c'ha il Marchese. C'ha il Marchese. Infatti lo vedo un po' rosso. Sì. Giù. Andiamo comunque avanti. Questa canzone non ha niente da invidiare alla pluridecorata Fortnite Son, il quale raggiunse la posizione 14 che abbiamo già messo nella classifica sì, degli sì, Stati sì, Uniti sì. Il 22 novembre del 69. La settimana prima di Billboard ha modificato la propria metodologia su colpi a doppia faccia. No, che vuol dire? Mandala prima di mandala. Bring a nickel, tap your feet. Down on the Corner dei Creedence Clearwater Revival. Non mi ricordo che, aspetta. Attenzione, la Babba Natale. Attenzione. No, ma non la possono vedere, no? È un calendario. Noi sì, vabbè, però. Vabbè, normalissimo. Un calendario normale. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Possiamo giurare che sono vestiti. Ricordiamo la gentile clientela che sono le 19.34 e il tecnico Bindi ancora non è arrivato. Ma detto arriva. Con calma. Arriva. Va con via, 10 minuti prima. Sì. Prova via. Vabbè. E andiamo avanti. Allora, io parlerò dei Rolling Stones e della loro Midnight Rainbow. Allora, io la dico come è scritta. Attenzione. Sì. La dico come è scritta. Però non sono io che leggo male, è proprio scritta così. Va bene? Ok. già ti ho visto, Luke. Midnight Rainbow. Almeno non mi sento solo, grazie. No, figurati ormai a questo punto. Midnight Rainbow è una canzone in inglese roccia banda dei Rolling Stones. Pubblicato il loro 1969 album Let It Bleed, non da confondere con Let It Be, che poi non è neanche un album. No, ma infatti. Keith Richards ha chiamato il numero uno blues di opera. Keith Richards, ma è un numero, ha è definito numero. La quintessenza canzone Jagger Richards, dichiarando nel 2012 documentario Crossfire Hurricane che nessun altro avrebbe potuto scrivere quella canzone. Grazie mille, Traslit. Midnight Rumble dei Rolling Stones. 4. Ah, fermi, vi devo raccontare una cosa. Ehi. A voi e agli ascoltatori. Voi pochi amici. Volete sapere che allora, abbiamo fatto di me. Sì. Io ti è una cosa subito. Su di te. No, è una constatazione, un dato di fatto. Dimmi. Allora, voi sapete bene quanto abbiamo combattuto per portare il Patruzzi da qualche parte ogni tanto, no? Ma non è vero, sono sempre venuto. Una volta tipo, che sono venuto, tipo, dopo le 25 lauree del Salvi su. No, due. La triennale era l'ultima. A Bologna, forse gli dici, Patri, vieni, dai, ci si diverte, dai. Lo salutiamo, ciao, Salvo. Ciao, Salvissimo. Ciao, Salvissimo. Non è mai voluto venire. Una volta ci siete andati, una volta non sono venuto. Basta, non è che. No, io sono ritornato diverse volte. Da solo, vabbè. Non è in gruppo. No, non è vero, siamo ritornati anche in gruppo. Una. Due volte. Una. Due volte. Due volte. Vabbè, insomma, una o due, ora, no, una 20. Non è che una o due. Però, siccome aveva sempre trovato le scuse, perché. Vabbè, evidentemente avevo da fare. No, non è vero. Ora è 3 giorni che mi fa. Nanno, quando è che si ritorna a Bologna? Allora, ma mi è piaciuta tantissimo come città. Ah, io sono arrivato anche quando siamo andati dopo cena a fare un giro prima di cena. Che abbiamo fatto lo scherzo e bla bla. Mi era piaciuta, però non più di tanto. Il giorno dopo, quando siamo andati, quando hai visto con la luce? Quando l'hai vista con la luce, soprattutto accesa, che siamo arrivati in Piazza Maggiore, giusto? È bellissima, veramente bella, bella, enorme. Un sacco di gente, chi suona, chi con i turtellini, i giocolieri, chi va a sedere, che sta lì. Belli, bella, bella, bella davvero. Guarda. Bella, davvero. Bella. Bellissimo, voglio tornare. Lo spot è stato offerto dalla regione Emilia Romagna. Ma poi la mortadella. Una mortadella, cioè. Buona. Col pistacchio? Quella vera è no, col pistacchio. No, quella. No. Se la chiedi col pistacchio, ti guardano male. Ti guardano male. Sì. Sì. Decisamente. È come se vai a Firenze. La mortadella vera è di asino, però. Ma dai! È Ushuc. Ma per favore. La mortadella vera è di asino. Ma. No, hanno smesso di farla. Però. Se Dio vuole. Ma Dio vuole, perché? Scusa. Ma dai, ma. Ci fanno la carne di cavallo. Ma no. Guarda sì, che non so con c'è chi mangia le formiche. E ciao, non lo voglio sapere. Andiamo avanti, direi, questo piccolo excursus. Come tanti altri. Non sul cibo, importa. Possiamo anche chiuderlo qui. Billy Joe Thomas, per gli amici. Ma che a Norcia fanno anche i testicoli di. Ma per favore, dai! È vero. Cioè, io sono uno che, tipo, la carne si ferma alla salsiccia. Basta, io dopo non vado più. Un pollo e basta. Ma io mi ricordo anche il nesso, la trippa, roba così, roba nostra, non mi piace. Mi ricordo anche la tua vecchia citazione, la roba che dorme fuori io. Vabbè, ma è una battuta. È un detto quasi. Ah, è un detto. La roba che dorme fuori non la mangi, ma è così per dire. Allora andiamo avanti con sì, anche perché sennò facciamo tardi. Finito al momento. Con Billy Joe Thomas, per gli amici BJ. Ha sempre detto lo conosci. Sì, per gli amici. Ha sempre detto che la sua fortuna è sempre stata di trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Ma ha dimenticato di sottolineare la sua fortuna più grande, il GPS. I due turisti che faceva John. No. Il GPL. No. Il GPL una mano dal cielo, 60 km al giorno, raga. La laringite. Bart Bacharach aveva composto nel 69 la colonna sonora di Butch Cassidy, compreso il brano guida Raindrops Keep Falling on My Head, che doveva accompagnare la famosa scena in cui Paul Newman e Catherine Ross si divertivano in bicicletta. Leggenda vuole che la canzone fosse tutti stata. Tutti e due nella solita o erano due biciclette diverse? Mi sembra erano due diverse. Grazie. Leggenda vuole che la canzone fosse stata offerta a Bob Dylan, che aveva gradito il film, ma era dubbioso sul tono molto pop della musica. Va detto che lo stesso Bacharach ha sempre smentito questa storia. Vero è che Raindrops era stata proposta a Ray Stevens e solo dopo il suo rifiuto fu assegnata a BJ Thomas. C'era però un problema. BJ aveva una forte laringite e il medico gli aveva sconsigliato di cantare. Lui aveva fatto ugualmente e alla quinta ripresa il nostro amico amicone di sempre Bacharach si dichiarò soddisfatto. Lo era ancora di più un alto dirigente della 20th Century Fox, entusiasta che BJ avesse imitato la voce un po' rauca di Paul Newman. Non era un'imitazione, era laringite. Tutto il male viene per nuocere. Grazie anche a quella, BJ Thomas vinse il primo e unico premio Oscar della sua carriera. Beh, più di lui, DiCaprio. Almeno lui l'ha bravo, vinto. Bravo, bravo. Bravo, lo stavo per dire io. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Raindrop keep falling on my head. Big Joe Thomas con la laringite. Il nostro amico BJ. Sì, nostro amico. Speriamo sia guarito dalla laringite. Beh, dal 69 penso oggi. Penso di sì, spero. 44 anni di laringite potrebbero. Hawaii 5 O. È un album strumentale dei Ventures. È stato. Oh, già. Sei buonanotte. Bella la base. Beh, però senti come va su. No, mai detto Bindi e stavo pensando a qualcosa per infamarlo. A ripetere che cosa? Quando manca il Bindi vengono fuori delle puntate eccezionali. Infatti è bene non venga più a questo punto. No, poveretto, no. Ma noi vogliamo sempre tanto Bindi. Bene. No, chiaro. Sto scherzando. Poi ha comprato la moto adesso. Ah, sarà giro con la moto. No, non ha la patente. Spero per lui di no. Ah, già, non ha la patente ancora. E se lo sta facendo e ho detto che non ha la patente e le forze dell'ordine mi stanno ascoltando, meglio di no. Non meglio di no. Posso continuare? No. Continui. Un saluto a tutti i geometri. All time rock and roll finisce qua. GPL. GPL. Hawaii 5-0. Come detto, è stata rilasciata nel 69 dalla Liberty Records. Raggiunse la posizione 11 nella Billboard, rimanendoci per 24 settimane. L'album è stato certificato disco d'oro e è stato azionato dalla title track di successo, che ha raggiunto la posizione 4 sulle single chart per le canzoni pop. E la canzone è stata anche inserita nel film 50 volte il primo bacio del 2004. We'll be right back. chiamato Goldrick, scusate, ma era più forte di me. Assomigliava a Goldrick. Sì, aveva un motivetto interessante. Sì, sì, interessante, capisco. E abbiamo finito con la storia del rock? Sì, era... sì, per oggi sì, sì, sì. Per chi se lo chiedesse, sì, era inevitabile mettere anche questo. Era inevitabile. Giusto, ma giusto. Perché non ti aggrada? Giusto tributo. Bella la base, qua. Peccato che chiaramente siamo alla radio. Chi tace acconsente, di conseguenza, no. Comunque, continuiamo con le citazioni. Quindi, le frasi più belle e più importanti dette da coloro che rappresentano il rock. La storia, la del, storia rock. Del rock. No, il mondo del rock. E troppo, però. Lei è Gianna Nannini. E una volta ha detto: nessuno vuole stare con me perché io sono innamorata del rock and roll. Io sono una suora, è inutile chiedermi con chi vado a letto. Ho una forte sensualità, ma la svolgo nella musica. Il mio sogno è godere sul palco. Non ho capito una parola. Neanche io. Dopo la ridiciamo. Ciao. Troverai. Mi hanno sempre detto troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine. Ed ognuno il suo corpo, chissà cosa chiedere. Fammi sognare. Poi si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi. l'ho detta malissimo. Sì, dai, ridilla. Vai più in là, mi devo concentrare. Vai. Nessuno vuole stare con me perché io sono innamorata del rock and roll. Io sono una suora. È inutile chiedermi con chi vado a letto. Ho una forte sensualità, ma la sfogo nella sessualità, musica. È sbagliata sessualità, hai sbagliato anche tu. Ma la sfogo nella musica. Il mio sogno è cadere sul palco. Ma la sfogo nella musica. No, Gianna Nannini. Gianna, vai, Masa, okay. Rimandala, vai. No. Benissimo. L'ultima citazione di oggi, chi la diceva questa? Doveva dire il Bindi. Andrò io. Ho provato a cucinare due volte e non sto scherzando. Per due volte abbiamo dovuto chiamare i pompieri. Lo giuro sulla mia vita, due volte. Pepper Potts, ovvero alias Gwyneth Paltrow, moglie del leader dei Coldplay Chris Martin. The Scientist. Set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a side apart. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Coldplay, The Scientist. E purtroppo anche oggi 20:00. Attenzione, attenzione, quella, attenzione. Esattamente, puntualissimo. Precisi. Anche oggi, e puntualissimo arriva il Bindi. Forse ha sbagliato. Magari pensava di arrivare alle 7. Invece sono le 8. Non abbiamo cambiato orario. No, ancora c'è quello. Il fuso orario. No, no, infatti. No, tra quanto ci lo mettiamo? Ancora un po'. Non ci interessa. Non ci interessa. No, no. Prima fine marzo, sì, sì. Fine marzo. Non hai quello sguardo, no, no, vinto, sicuro. Si dorme di meno. No. Vabbè, lo mettono di sabato, non è che lo mettono di. Sabato, sì. Io dormo di meno. Io no. Ma metti che ti mettono una partita a mezzogiorno e mezzo. Ma guarda un po', andare allo stadio. Ma me la perderò, guarda, per quella volta. Come me fai con quell'ora a meno? Voi amati di calcio. Malati. Malati, sì. Malati. Veramente. Comunque, ragazzi, vi salutiamo. 20.00. Ricordiamo gli appuntamenti. Come sempre. Pagina Facebook, All Time Rock and Roll, dove malati potete di fare calcio. Di calcio. Di calcio. Si è svegliato questo. Si è svegliato. Sta lì su la pagina Facebook. Sta lì 6 giorni. Io sono un gaming differente. Non sono qua, non mi gioco. Grande Mazzeo. Se volete, questa la potremmo usare come base nuova. Sì, è carina, carina molto. Molto allegra. Proprio ci vuole uno che ogni tanto urla sotto Goldrick. Quando c'è il bindi lo farà lui. Sì, è il suo compito prossimo. Sarà essere Goldrick. Sì, ovvio. Urlare Goldrick durante la puntata. Sì, per sì. Un'ora. Il problema comunque è quando c'è il bindi. Quando? Dimmi quando. Comunque, ci, sì, la pagina Facebook, Il Time Rock and Roll, dove potete mettere o comunque dire anche le vostre dediche, se volete, perché no? Perché no? E il podcast di questa puntata. Quindi, se ve la siete persa o semplicemente ve la volete riascoltare, oppure scrivere a www.chillhavvisto.it per Riccardo Bindi. Sì, Riccardo Bindi. Esatto, quello è molto importante perché siamo un po' in pensiero anche noi. E poi non il telefono, non si fa mai sentire. Torna a casa. Torna a casa. Ma come te lo devo far capire? Ma dai, no! Ragazzi, mercoledì prossimo, ciao a tutti. Ciao a tutti. Goldrake.